Radio 24 Reportage. Rosarno, nella tendopoli dei braccianti, dove si muore per 3 euro, di Raffaella Calandra. La notizia arriva insieme alle scorte d'acqua. Smantellamento progressivo di quella tendopoli che ormai è diventato un ghetto. Costruirne una che abbia sempre una valenza temporanea, ma che possa salvaguardare la dignità delle persone che vi fanno parte. Il sole arroventa le lamiere e scolorisce le tende blu col logo del Ministero dell'Interno, mentre il sindaco di Rosarno, Giuseppe Ida, comunica la decisione presa con la prefettura e con tutti gli operatori di questa tendopoli di San Ferdinando. A breve il campo inizierà a sparire e gli ospiti, tutti i lavoratori stagionali di origine centroafricana, dovrebbero essere suddivisi tra i paesi della piana di Gioia Tauro. C'è chi vive qui anche da 6 anni, tra bidoni fumanti e cartoni sporchi, da quando, cioè, l'accampamento fu spostato di una manciata di chilometri dopo la rivolta di Rosarno, appunto. E anche dietro questo nuovo spostamento c'è una paura che degeneri proprio in rivolta. La tensione è salita dopo la morte di un giovane maliano ucciso dallo sparo di un carabiniere, e questo anche perché diversa da quella ufficiale è la versione del campo raccolta dall'avvocato Santino Piccoli. I ragazzi dicono che erano più militari, diciamo, non abbiamo capito se erano solo carabinieri o anche poliziotti all'interno della tenda con il ragazzo. Erano solo loro dentro e poi dopo un po' di tempo si è sentito uno sparo. Mentre c'è una ricostruzione, una versione data da un bollettino dei carabinieri che dice che si è intervenuti in una situazione di pericolo con un coltello e poi uno sparo fatto per difesa. Loro perché raccontano che questo ragazzo si trovava da solo con i carabinieri? Il problema è sorto in una tenda che è adibita a bar, diciamo, dei ragazzi. Detto loro, avrebbero chiamato i carabinieri per calmare un ragazzo che era un po' alterato. Sono arrivati questi 6 o 7 carabinieri, si sono chiusi nella tenda e in quella tenda non si è capito bene che è successo. Ci hanno detto: noi avevamo chiamato i carabinieri, pensavamo potesse aiutarci in quel momento, ma avremmo pensato che quell'intervento poteva portare alla morte di uno di noi. Mio fratello è prendere il cutero, 7 carabinieri e spara molto con garina, così ammassa la persona. C'è la rabbia negli occhi di Moussa, maliano anche lui, come la vittima della sparatoria, mentre ci conduce tra le file di baracche per portarci lì dove tutto è successo, in quella tenda bianca con una scritta caffè impressa con un pennarello. Senti l'odore della rabbia nel campo di San Ferdinando, nel caldo asfissiante che trasforma in serre le baracche da cui pende una distesa di pantaloni usurati e impercettibili aliti di vento vengono cercati con giornali trasformati in ventagli. La senti la rabbia davanti ai bidoni usati per scaldare l'acqua d'inverno o superando quelli dove pezzi di carne ora viene abbrustolita accanto all'immondizia. È massare nero, ma perché così? Guarda a monete e siamo, tu ce la fai dormire di qui. E la senti ancora la rabbia nel modo in cui centinaia di questi giovani africani ti circondano, ti parlano, a volte anche con toni aggressivi, ti strattonano per farti vedere l'immondizia da una parte, le loro scarpe accatastate dall'altra, e con gran facilità qualsiasi cosa ora potrebbe infiammare la rabbia di chi si spezza la schiena nella raccolta di arance, kiwi o dei pomodori nel Salento per 3 euro all'ora. Tutti lavorano nei campi qui, anche Mohamed Traoré, che ha lo stesso cognome del giovane ucciso. Io sono raccolando arancia sempre, io ce l'ho un altro patrone, quello che mi fa lavorare sempre qui. Nella piana di Gioia Tauro? Sì, tutti. Ecco, adesso non c'è lavoro per voi adesso? Adesso non c'è lavoro perché frutti abbiamo raccolto tutti già. Adesso per voi è un po' il momento più complicato? Sì, è troppo complicato in questo momento, perché fa caldo dentro sempre, sì, è troppo caldo. Siete troppe persone, tutti troppo vicini? Sì, ci siamo vicini perché una tendopoli dentro ci sono i 6 persone o 9 persone ci sono dentro. Dentro una stessa tenda? Una stessa stanza. Siamo molto stretissimi per letto. Ma adesso, dopo che c'è stata questa sparatoria ed è morto Sakin Traoré, siete preoccupati, siete tristi, arrabbiati? Sì, abbiamo arrabbiato molto tempo perché non è... rischiamo che quello che fanno così non è, va bene per noi qua. L'altro gente che non si possono vedere, africani, cosa dobbiamo fare là? Noi... Perché siete preoccupati? Ci siamo preoccupati perché gente calabrese è troppo facilissima per noi, perché ci trattiamo male. E il lavoro, pagare troppo poco soldi, perché soldi non si abbastano per anche mangiare di noi. Quanto guadagni ogni ora tu? Ogni giornata noi guadagniamo 25 euro. Guadagni 25 euro e quante ore lavori? 25 euro per giornata, 7 ore fa dobbiamo lavorare. Quindi 7 ore nei campi? 7 ore nei campi. Riconosci la disperata ricerca di una normalità in questa tendopoli ardente. La vedi nel vecchio biliardino recuperato dai rifiuti, nel container aperto con qualche bibita e la TV diventato l'emporio per tutti, nelle parabole che fioriscono tra corridoi di tende dove vengono parcheggiate le preziose biciclette che permettono alle centinaia di ospiti di questo campo di poter raggiungere il centro di San Ferdinando o Rosarno, passando davanti a quella vecchia cartiera dove la rabbia dei neri, come si disse già nel 2011, si scagliò contro la popolazione calabrese, uno dei feudi più ostinati di 'Ndrangheta, dominio delle famiglie Bellocco e Pesce soprattutto. E allora ci fu pure chi imbracciò il fucile e sparò. E tutto questo resta nei racconti della popolazione, nella fatica di alcuni quartieri dove i residenti sono quasi spariti e nella rassegnazione con cui si giustificano quasi dall'accusa di sfruttamento indicando il prezzo degli agrumi, 6 centesimi al chilogrammo. Il lavoro si dà e si dà a nero perché quella è la condizione possibile, quella diventa sfruttamento. Ma com'è la convivenza, diciamo, qui nel comune dove da anni e anni c'è un numero notevole appunto di migranti? La situazione economica crea questa forbice e impedisce l'integrazione, nonostante siano rarissimi ma presenti i casi sia da 15 anni più o meno di individui che si sono integrati. Io ho un amico, Hassan, ancora molto affezionato alla comunità rosarnese e la comunità rosarnese è affezionato a lui, però è un caso molto raro. C'è un altro ragazzo che spesso viene a mangiare da mia nonna, la maggior parte stanno nelle tendopoli e è una cosa inaccettabile per la comunità rosarnese e per loro stessi. Tendono a ghettizzarsi anche loro, ci sono interi quartieri invivibili come il quartiere Ospizio, il centro storico, c'è una parte che praticamente ormai zona selvaggia dove abitano solo loro in case abbandonate. Perché quindi sono quartieri invivibili? Soprattutto il quartiere Ospizio è un ghetto vero e proprio dove hanno loro stessi zone di spaccio, di prostituzione, risse quotidiane, accoltellamenti fino avanti ieri, credo. Pur restando, diciamo, lo slancio di accoglienza, è cambiato un po' la disponibilità nei confronti di chi arriva da fuori. Prima della tendopoli venivano gli stagionali, facevano il lavoro, adesso sono praticamente residenti qua. Non a mio parere, l'agricoltore che non è in una buona situazione, dal lavoro a nero all'extracomunitario, perché? Perché l'extracomunitario fa quel lavoro che serve all'agricoltore, però allo stesso tempo l'agricoltore non è nella situazione economica di poterlo pagare adeguatamente, per poterlo pagare o per metterlo diciamo a regola, se l'extracomunitario ha i documenti a regola ovviamente. Quindi nel momento in cui il lavoro non si dà è razzismo, nel momento in cui il lavoro si dà e si dà a nero perché quella è la condizione possibile, quello diventa sfruttamento. E a quanto si vende un chilo di arance qui? Chi lo vende e non lo regala 6 centesimi. È pazzesco. Le clementine che si trovano a 2 euro nei supermercati le vendono a 15 centesimi. Questo è sfruttamento. È una cosa che va rimarcata, è che il rosarnese non prende di più dell'extracomunitario. E la situazione di lavoro è quella. Per questo spesso gli agrumeti qui sono stati trasformati in coltivazione di kiwi. Anche gli altri paesi ci devono aiutare, la richiesta del sindaco di Rosarno, Ida. Ricostruire in un terreno attivo quello, una tendopoli più piccola che possa contenere complessivamente 440 persone e che abbia come obiettivo principale quello di salvaguardare la dignità e il rispetto di persone. Tutti quanti gli altri dove verrebbero sistemati? Si attiveranno immediatamente delle politiche di integrazione che possano coinvolgere un'area più vasta di intervento, che è quello appunto del comprensorio della piana di Rosarno e non più solo del comune di Rosarno e San Ferdinando. Quindi ridistribuire questi extracomunitari vari questi migranti tra quanti comuni? I comuni del comprensorio sono 33, rimane inteso che un tavolo che abbiamo convocato per il 27, che il governatore della Calabria ha convocato per il 27 di questo mese a Catanzaro, e in quella circostanza tenteremo di costruire una sinergia che possa coinvolgere tutti i sindaci del comprensorio. Intanto il sole rattrappisce le tende e scioglie distese di agrumi lasciati ormai spesso sugli alberi a marcire. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.